Il punto di Stefano Folli. L'apertura dei 5 Stelle a un governo su base non partitica, cioè non espressione diretta delle forze politiche tradizionali, è la prima luce nel buio. Significa offrire a Napolitano i margini di manovra necessari per trovare un punto di equilibrio. Ora tocca a Bersani dare a sua volta un segno di realismo. Insistere nella vecchia posizione, o guido io o tutti a casa, rischia di essere distruttivo. Se invece anche il PD assume la stessa linea morbida dei 5 Stelle, il Quirinale potrà avere il raggio morbido della crisi. Un governo del Presidente, guidato stavolta non da un economista, ma da una personalità attenta ai problemi dello Stato e alla necessità delle riforme. Sempre che la garanzia e la supervisione di Napolitano proseguano nel tempo, altrimenti la vita di questo governo sarà più incerta.